Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Salah si va a riprendere la palla su Koulibaly che sta soffrendo. Dengola la lascia! Edin! Dzeko! 1-0, ma è da tutto il primo tempo che Koulibaly soffriva con le pressioni. C'è Dybala che parte col sinistro! 1-1! Dybala ci pensa lui! Secondo gol consecutivo in campionato, terzo consecutivo in assoluto. Marquez sgondola ancora prima di consegnarlo per la quinta volta titolo di campione del mondo. Questa moto che è stata tanto discussa all'inizio stagione, ma che per la verità il suo sporco lavoro l'ha fatto alla grandissima tra le mani di questo giovane fenomeno che diventa campione del mondo. Si volta dietro, non c'è nessuno, manda calci di allegria verso il muretto. Marquez c'è ed è campione del mondo. Si va verso la volata, intanto è stato ripreso laser alla volata, parte di solo, parte anche Bonen con Alexander Kristoff, c'è il Kristoff e poi spunta Sagan alla volata con Peter Sagan, doppietta di Peter Sagan che va a bissare il successo dell'anno scorso a Richmond. Ancora pericolosamente davanti, Melchiorri fa ancora sognare il Cagliari, 2-1 a San Siro con deviazione a poco più di 5 minuti dalla fine. Il Cagliari ha ribaltato tutto. Attenzione, Niang è partito, c'è la Padula che taglia. Niang ha raddoppiato il Milan dopo 45 secondi nella ripresa. Niang segna il terzo gol del suo campionato ed è 2-0. Buongiorno signori, Giorgio De Luca, nostro autore Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Fazzoni in redazione. Insomma, sarebbe una domenica piena di spunti sportivi, strettamente sportivi, interessanti, a cominciare dal sabato con la Roma che vince e mette nei guai il Napoli, aprendo diverse crepe nella squadra di Sarri De Laurentiis, proseguita con la sofferta vittoria, ma si suol dire in questi casi, perdonatemi la frase fatta, come fanno le grandi squadre, e con un colpo di un grande campione, una punizione, poi il rigore, c'è Pablo Dybala. Poi la domenica chiusa dal Milan che si arrampica, che vince a Chievo su un campo non semplice, tutt'altro che semplice, vince con grande autorità, secondo me. E poi soprattutto c'è il capitolo Inter. Inter che perde con il Cagliari, l'Inter nella bufera, l'Inter con De Boer adesso da cambiare, si fanno già i nomi, e Capelle, Prandelli, eccetera. Forse sarebbe una follia cambiare allenatore olandese appena chiamato dopo l'altra follia di licenziare Mancini 10 giorni prima dell'inizio del campionato. È chiaro che gli argomenti sono questi. Poi parleremo anche della vittoria di Marquez nel moto mondiale, parleremo anche del mondiale di ciclismo nel deserto, sembrava di vedere un mondiale sulla luna. Tutto questo avverrà dopo. 800 24 00 24 è il numero verde. Ho detto sarebbe, ho usato il condizionale, un lunedì di grandi argomenti sportivi, però si riduce ad un nome, Mauro Maurito Icardi, che io spesso ho chiamato il tronista. Biografia, intervento di Zanetti, Xavier Zanetti, bandiera dell'Inter, bandiera internazionale, eccetera, prima della partita, per quella famosa biografia, e prenderemo provvedimenti in confronto di Cari. Tra l'altro, notizie dell'ultima ora, ci sarà un incontro tra società e giocatore, verrà diramato un comunicato chissà quale, magari ve lo sapremo anche dire nel corso della puntata. Poi c'è quello striscione appeso da quei 40, perché sono quelli gli oltranzisti del tifo. sotto casa di Icardi, l'avrete visto da ogni parte, noi ci siamo, quando arrivano i tuoi amici argentini ci avvisi o fai l'infame, gli hanno scritto sotto casa, lui di mano sua ha rimosso lo striscione. E questo è certamente un argomento di discussione, caro Pierluigi Pardo, lo sarà anche per te. Come va? Bene, tu? Bene, sto sentendo questo veloce preambolo, sono perfettamente d'accordo sul fatto che è il caso del giorno, non ci sono assolutamente dubbi, con tutto rispetto per tutte le altre vicende che sono importanti, c'è un Milan tonico, c'è la Roma che ha vinto a Napoli, c'è la Juve che anche quando non brilla vince, questa è la cosa che conta, quindi di temi, di argomenti ce ne sono veramente a migliaia, però insomma non è colpa nostra, non è che sono i giornalisti cattivi che vogliono parlare, perché poi guarda, c'è qualcuno che dice voi giornalisti, allora partiamo dal presupposto, non ci viene in tasca un euro da questa vicenda, no, almeno se no ne parleremmo tutti i giorni per tre mesi. Dal punto di vista mio personale, ma questa magari è una mia idea, mi ognuno deve avere la sua, il calcio giocato, però come fai a non parlare di questa roba qui oggi? Penso sia abbastanza allora normale. Chiariamo subito le rispettive posizioni e poi abbiamo diversi ospiti sull'argomento. La tua? La mia è che hanno sbagliato tutti, ha sbagliato certamente Icardi nello scrivere quelle cose lì sono cose, insomma l'autobiografia l'ha fatta con intelligenza e con razionalità, è abbastanza chiaro che una cosa di quel tipo possa prestarsi a delle interpretazioni abbastanza negative e possa creare problemi. Sentivo ieri sera Mario Sconcerti alla Domenica Sportiva a dire che potrebbero esserci anche provvedimenti di carattere disciplinare dal punto di vista del giudice sportivo, anche questa è un tipo di interpretazione possibile. In ogni caso è qualcosa che finisce, secondo me, teoricamente in buona fede, perché poi se tu leggi tutto il paragrafo lui finisce dicendo adesso è tutto a posto con la curva, abbiamo sistemato, loro sono importantissimi per l'Inter, quindi forse c'è addirittura la volontà di essere conciliante, forse, però questa volontà di essere conciliante è stata spazzata via invece da quelle frasi, insomma da quell'accenno ai delinquenti argentini da far venire qui, che sarà anche un appunto una butade letteraria, però poi vagliela a spiegare che è una butade letteraria. Quindi Icardi ha sbagliato sicuramente, e la prossima volta che fa un'autobiografia mi chiedesse un consiglio, non perché gliela voglia scrivere io, ma insomma dovrebbe parlare con qualcuno che gli vuole bene e che gli evita queste robe, perché sì, poi oppure alla fine, ieri lo stavamo dicendo, cioè non è che Icardi diventa ricco con questo, non ha bisogno di questa autobiografia per diventare ricco, secondo me ad oggi sono più i problemi delle opportunità, quindi su questo non ci sono dubbi. Secondo me ha sbagliato chiaramente la curva a scrivere delle cose, insomma, quando passa sul piano delle minacce o comunque prova a esercitare questo diritto di pressione, secondo me chiaramente non sbaglia anche lei, però è un errore che in qualche modo nasce dalla difesa di un interesse, no? Cioè nel momento nel quale vieni a dirmi quelle robe lì, io il mio potere lo esercito, e l'Inter secondo me esce malissimo da questa vicenda. Malissimo. Prima di tutto perché le bozze le devi controllare. Bravo, e questa è la prima cosa. Secondo me la parte che esce peggio è l'Inter. Poi ti racconto dell'autobiografia di Cassano, la lettura delle bozze dell'autobiografia di Cassano. Dopo il traffico, va bene. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobovia. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Tutti convocati. Abbiamo visto le immagini, abbiamo visto la reazione di Icardi, abbiamo visto Maglietta tornare in campo, Blic, amarezza, frustrazione, orgoglio anche da parte di Guarin, come vediamo dalle immagini. I tifosi erano venuti con grandi auspici qui a Reggio Emilia, chiaramente la delusione è forte e c'è tutta la concitazione ovviamente del fine gara, però insomma adesso i giocatori sono negli spogliatoi. Un errore scrivere queste parole, ricostruire questo episodio in un'autobiografia, insomma, come la prende la società, ci saranno dei provvedimenti? Purtroppo sì. E noi come società e i tifosi sono la cosa più importante, tutti lo dobbiamo rispettare. Noi non possiamo accettare questi comportamenti. Parte Icardi, sbaglia il rigore Icardi al 26esimo. Poteva essere il settimo gol in campionato, ma poteva essere soprattutto la prima volta a San Siro in vantaggio in questa stagione per l'Inter, e invece Icardi ha sbagliato il rigore. Adesso viene comunque applaudito da tutto lo stadio. Ci siamo presi il tempo di valutare bene. Io non è che compro il libro di Icardi e vedo cosa ha scritto Icardi, sono concentrato su altre cose. È normale che ho saputo tutto quello che, insomma, è stato scritto. Ci sono state delle situazioni che non sono piaciute a noi, come non sono piaciuti ai tifosi, direi giustamente. Domani, ripeto, avremo il tempo di valutare insieme anche a lui, perché è giusto comunque che il ragazzo, insomma, si prenda le proprie responsabilità, ne venga a parlare in società con noi e poi prenderemo sicuramente una decisione. Allora, questo è una rapida sintesi sonora dello psicodramma che si è consumato a San Siro. Pierluigi Pardo, naturalmente, collegato con noi, poi ci racconta delle cose su come è stata controllata la biografia di Cassano. Secondo me l'Inter ne esce male da questa vicenda ed è forse la principale sconfitta. Io dico che una frase come quella scritta, sono pronto ad affrontarli uno a uno, forse non sanno che sono cresciuto in uno dei quartieri sudamericani con il più alto tasso di criminalità e morti ammazzati per strada, quanti sono? 50, 100, 200, va bene, registra il mio messaggio e faglielo sentire. Poi porterò 100 criminali dell'Argentina che ne ammazzano sul posto, poi vediamo. Questa è una stronzata di proporzioni bibliche e su questo non ci piove minimamente. Sul resto invece possiamo discutere. Ci sono già molti ascoltatori in linea, io saluto e ringrazio Gianfelice Facchetti. Buongiorno, ciao, ciao, ciao. Buongiorno, ciao Gianfelice. Senti, ma ti chiedo una cosa, tuo papà sarebbe andato a dire le cose che ha detto Xavier Zanetti? Non so, non mettermi a fare, a immaginare che cosa avrebbe detto. Posso soltanto dire quello che penso io, la mia reazione da tifoso dopo una giornata abbastanza pazza come quella di ieri e tutto quello che è successo, che poi in realtà da queste parole che sono uscite, la reazione di una parte della tifoseria, le parole della società, alla fine quello che si è persa l'Inter per strada, perché poi quello che è il risultato finale, che la squadra non è stata nella condizione di tranquillità per potersi esprimere al meglio, e quindi il senso sportivo, perché poi è una squadra di calcio, gioca un campionato e delle competizioni, quindi cercare di raggiungere dei risultati. Con un clima come quello di ieri era impossibile che una squadra non sentisse, non sentisse la pressione, e quindi secondo me se c'erano delle era giusto fare delle valutazioni, delle considerazioni, tutto quello che può essere sul contenuto, sulle reazioni da una parte, perché possiamo discutere su un'autobiografia frettolosa, magari superficiale in certi passaggi, possiamo discutere anche, se vogliamo, su certi striscioni che comunque in uno stadio che è frequentato anche da bambini sono di cattivo gusto, e quindi secondo me però il luogo, il contesto, il momento non era quello lì, non era prima della partita. Dimmi la verità, poi ti lascio a Pardo, ma sì. Secondo te come ne esce l'Inter come club da questa vicenda? Perché le autobiografie, adesso Pardo ci racconta su Cassano come vengono controllate, come vengono vagliate, valutate. Sappiamo che Icardi è un ragazzo complicato ed estremamente dedito ai social e a tutto quello che può essere diciamo social. Posso fare un giudizio, per dare un giudizio su tutto, aspettare a vedere quale sarà l'epilogo poi finale, perché comunque innanzitutto per me l'epilogo fondamentale e principale è quello del campo. Giovedì sera c'è una partita. E il rischio che si continui a parlare di cose extra calcistiche, perdendo di vista l'obiettivo principale che è quello. E questo già rischia di essere uno spreco di energie non da poco, da gestire, perché comunque il rischio è che poi questa cosa prevalga sul resto. Detto ciò, è chiaro che dopo un'estate un po' rocambolesca col discorso del rinnovo del contratto, un giocatore che è abituato a vivere comunque molto sui social va controllato, perché rischi di trovarti in difficoltà e quindi di avere le contromisure per non mettere in difficoltà tutti i compagni, tutte le persone che lavorano per un obiettivo comune. Questo sì. È il calcio di oggi, non riguarda soltanto, riguarda insomma calciatori di un certo tipo, quindi che hanno quel tipo di narrazione quotidiana delle loro vicende private, e quindi ci voleva sicuramente un po' più di attenzione prima, ma secondo me anche una volta fatta la frittata poteva essere una strada per salvarla, ecco, almeno durante la partita e sì. In quel momento di quei 90 minuti. Che poi Pierluigi, Zanetti fa riferimento ai tifosi dell'Inter. Io eviterei questa generalizzazione. Sì, anche perché ieri lo stadio, da quello che mi risulta, io non ero a San Siro, però lo stadio era spaccato. Lo stadio era assolutamente spaccato. E il momento plastico c'è stato dopo il calcio di rigore sbagliato, perché c'è stata una parte dei tifosi, insomma, che geolocalizziamo così, in maggioranza in curva, che l'ha fischiato pesantemente, e un'altra parte che invece l'ha applaudito. Quindi è la dimostrazione del fatto che questa vicenda divide il popolo nerazzurro. Ed è la cosa peggiore che possa succedere, è il rischio più grande, perché insomma tutti, penso sia i tifosi della curva che quelli della tribuna, che Avio Zanetti, che lo stesso Icardi, hanno a cuore poi l'interesse dell'Inter. Mm-hmm. E per leggere oggi per esempio di un interessamento dell'Arsenal, che non mi sorprende, e secondo me se l'Inter si priva di questo giocatore può anche decidere di farlo, ne parlavamo anche quest'estate, ma deve essere lei padrona del suo destino, deve essere lei che lo vende, perché monetizza e magari punta su altri giocatori, non lei che è costretta a venderlo perché c'è un problema ambientale. A quel punto non è che lo vendi, lo svendi. Ah, certo. Quindi questo secondo me è un problema molto grosso. Io sono rimasto un po' sorpreso, ti dico la verità, dal tono netto di Via Zanetti ieri nel prepartita, perché mi è sembrato inadeguato. Cioè, secondo me era veramente la volta in cui bisognava fare 0-0 e poi parlarne alla fine della partita. Invece chiaramente quella posizione lì, come la posizione anche di Ausilio dopo, dice abbastanza chiaramente che arriveranno le sanzioni nei confronti del giocatore. E le sanzioni ci possono anche stare, ma non deve essere la curva a deciderlo. Detto il fatto che poi la curva fa, tra virgolette, il suo mestiere. Cioè, in tutto questo, al netto delle volgarità, chiaramente, dalle quali mi dissocio, ci mancherebbe altro, anche mettere in mezzo Vandanara non mi sembra elegante, perché comunque è tirar dentro una persona che non c'entra nulla, no? Ma sì, questo fa parte è la moglie, la gente, però manca una prova diretta, non è che l'ha scritta lei l'autobiografia, no? L'ha scritta Icardi. Quindi chiaro. Secondo me queste cose qui sono tutte cose sbagliate, però poi alla fine la curva difende se stessa, non ci prendiamo in giro, la curva ha dei capi o comunque ha delle persone che la frequentano, che in quella circostanza lì avevano avuto, diciamo, un alterco abbastanza pesante con Icardi. Quando poi esce questa roba qui è chiaro che la curva fa squadra e tira fuori quegli striscioni lì. Poi ovviamente la violenza è da condannare, ci mancherebbe altro, la violenza verbale pure è da condannare, quindi però fa quello che deve fare da un certo punto di vista, no? Cioè, sì, che poi sono quei 30-40, non è quella 40. Curva intera, sono quei 30-40 che vanno a legare lo striscione sotto casa di Cardi. A quel punto l'Inter deve decidere da che parte stare, la società deve decidere da che parte stare. Ci sta la punizione nei confronti di Cardi, ma deve essere l'Inter che la prende. Ah, io guarda, e giro la domanda, che è l'ultima, Gianfelice Facchetti. Dovessero togliere per questa ragione la fascia di capitano a Icardi, sarebbe una doppia sconfitta. Poi possiamo discutere finché vuoi, perché so quello che hai dichiarato, Gianfelice, quest'estate su quella decisione di assegnazione della fascia di capitano a Icardi, che certamente è il miglior giocatore dell'Inter, ma non ne è una bandiera. Dovessero togliergli la fascia di capitano, secondo te farebbero bene o male? No, adesso su questa onda cioè quello che non deve accadere è che sull'onda emotiva di tutte queste reazioni a catena, che sono state secondo me appunto anche poco ponderate, di dover dare per forza una risposta in quel senso lì. L'Inter ha bisogno di Cardi, anche perché siamo a ottobre, è l'attaccante più forte che ha. sì, ha rinnovato il contratto pochi giorni fa, e oggi, come dire, promuoverlo tra virgolette a bandiera, rinnovandogli un contratto pochi giorni prima e degradarlo in una cosa nella quale comunque anche lui poi dovrà dare delle risposte, in parte da dare, ma questo in una sede che secondo me non è una sede, che non è il campo. Il campo, chiaro. E io l'unica cosa che posso dire, se penso a mio padre, e non tanto immaginare che parole avrebbe detto, perché quelle è impossibile immaginarle, ma sicuramente il pensiero, l'unico, fondamentale per i calciatori. Un calciatore di una squadra come l'Inter, che entra a San Siro con quella tensione, fa il 100 volte più fatica, e questo chiunque conosca bene l'Inter lo sa, lo conosce, e quindi deve tenere presente che poi dopo andare a battere il Cagliari diventa un'impresa titanica, perché ti ricontro l'energia di un tifo che ti rema contro, anche gli altri giocatori giovani arrivati dall'estero, poco abituati, di personalità, una squadra che non è ancora coesa, lo sente e resta lì a metà come magari appunto è stato ieri, cioè che nel momento in cui fa il gol si perde per strada, in un momento in cui invece aveva bisogno di stare unita. E questa cosa da fuori San Siro si sente, perché c'è proprio un'atmosfera, chi frequenta lo stadio da anni lo capisce subito che aria sta tirando, ed è quello che va preservato, perché sennò si è visto che a ottobre siamo qua già a riparlare del futuro, che Icardi è già sul mercato, che allora è tutto da ricominciare, perché cosa? Per una serie di errori che sono stati fatti a più livelli, perché secondo me le responsabilità sono a diversi livelli, ma non può essere quello che ieri manda di nuovo tutto in discussione ancora per ricominciare da capo, perché certamente. Ti ringrazio, grazie a voi, buon lavoro, grazie a Gianfelice Facchetti, ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Io non gliela faccio più, ragazzi. Oh, mi fate fumare una sigaretta? Dai, mezza sigaretta. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Rieccoci! Convocati. Allora, convocati amici miei, andiamo rapidissimi perché abbiamo un paio di ospiti in arrivo. Daniele Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Sono interista e mi dispiace molto vedere che la causa della situazione dell'Inter, a mio avviso, è la mancanza di responsabilità da parte dei dirigenti. Un ausilio che voi avete fatto sentire, che dice che non è di competenza sua leggere la biografia di Icardi, no, dimostra che poi io ho davanti l'organigramma dell'Inter, direttore di comunicazione Robert Faulkner, leggiamo consiglio di amministrazione Ren Yun, Mixin, Yujun. Nell'Inter c'è sempre stata questa confusione di ruoli, questa mancanza di responsabilità, cosa che nella Juventus o in altre squadre si vede divisa in maniera precisa e si sa a chi si deve riferire. Adesso il danno che si viene a creare riguarda anche Ausilio, riguarda la dirigenza, riguarda tutti, e non è un problema di Icardi. Icardi è una persona che va gestita e quindi va seguita. Scrive un libro e quando gli ultras leggono che cose negative, allora anche la dirigenza si accorge che non va bene andare contro. Ma siamo dei pagliacci, siamo ridicoli. Perdonatevi, sto ridendo perché mi è arrivato un WhatsApp di un mio e vostro, il nostro caro amico, che mi scrive: ma le bozze chi le corregge? Confucio. Matteo, provincia di Modena, e poi vi presento i due ospiti che abbiamo al telefono. Sì, salve. No, dicevo, solo all'Inter possono succedere queste cose. Poi che cosa passi nella testa di un ragazzo di 23 anni con una carriera ancora da scrivere davanti, di fare un'autobiografia, no, per me questo è un altro discorso ed è legittimo. Per me è una cosa assurda. E poi dopo, niente, già Icardi non ha questa simpatia per l'extracalcio, l'unica sua fortuna è che è un gran giocatore, farà due gol domenica e tutti amici. Appunto, proprio perché è un grande giocatore, l'Inter deve provare a tutelare in ogni maniera e da ogni punto di vista il suo tesoretto. Allora, oggi Maurizio Corsetti su Repubblica scrive: orrendo episodio, ma occhio al tempismo dell'Inter e di Zanetti. La curva ha sempre ragione, il reprobo sarà punito. Niente di che, al massimo verrà cazziato. Gli ultra sono intoccabili. Questo l'avevano già captato o capito anche i cinesi, dice il saggio. Se tranquillo tu vuoi stare, il curvaiolo non aizzare. Mentre sotto il titolo Icardi e la fascia curva pericolosa, Luigi Garlando, prima penna della Gazzetta dello Sport sul calcio, scrive: la domanda vera doveva essere fatta in estate. Icardi è uno che spacca più che unire l'Argentina, ha letale esperienza, l'anima per essere ciò che è stato Facchetti. Perché una fascia di capitano non potrà essere mai un bonus in più, un semplice premio per una firma di un contratto? Se quest'estate i dirigenti dell'Inter hanno risposto sì a queste domande, Mauro Icardi è il nostro degno capitano. Allora oggi alla Pinetina ci pensino 100 volte prima di togliere la fascia. Sarebbe un po' come autodegradarsi e degradare migliaia di interisti silenziosi. Uno striscione di gratitudine in curva vale tanto. Luigi Garlando, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao. E Pierpaolo Marino, ciao. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ciao Pierpaolo. Ciao. Luigi, esponi la tua opinione. Allora, la mia è questa. La mia è questa, molto chiara, molto dura, impopolare. Levo quella frase sui criminali argentini, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, che neanche un bambino di un asilo potrebbe scrivere. Però sul confronto di quel giorno lontano di Modena con Guarin e Icardi che vanno sotto la curva, io non ho ragione di non credere a Icardi sull'episodio della maglietta lanciata, pantaloncini lanciati, il tifoso che li strappa. Io avrei reagito brutalmente nella stessa maniera, senza poi degenerare in tutte queste situazioni. Ma la vera sconfitta di questa situazione, secondo me, secondo anche Pierluigi, mi par di capire, è l'Inter. Assolutamente. Cosa dici? Sì, cioè, non ci sono vincitori, perché ovviamente anche Mauro, anche Icardi, insomma, per quello che ha scritto, insomma, ha messo in difficoltà l'Inter, quindi anche le sue colpe. Però ecco, quel punto che dicevi tu mi sembra il più importante. Cioè, è stato veramente paradossale il fatto che ieri Icardi abbia tirato un rigore a un portiere che era un capitano degradato per volontà della squadra di Cagliari. Bravissimo. Cioè, questo è stato veramente un fotogramma sul quale riflettere. Al di là delle ragioni, eccetera, eccetera, io rifiuto, e questo è un punto mio, io rifiuto che la curva sia il primo interlocutore di una società e che la società le riconosca come tale. Purtroppo, che poi Luigi, la curva, secondo me è sbagliata anche questa generalizzazione, così come sbagliata la generalizzazione che fa Zanetti parlando della tifoseria. Esatto, cioè la tifoseria è una cosa molto più ampia, è un deposito di valori, di storie, di affetti, cioè non può essere riconosciuta solo in quei due o tre ultra che pretendono rispetto. Ecco, io rifiuto questo. Per me lo stadio è un'agorà vecchia dell'antica Grecia in cui ognuno i suoi sentimenti si confronta, non potrà mai essere una cupola, cioè non potrà mai essere retta dalla cupola della curva. Usano anche quelle terminologie, no? Hanno parlato di infamia, dello striscione steso lì, rispetto si deve, no? Sì, è loro linguaggio, il primo interlocutore slang, della società è quel bambino di Napoli che piange. Potrò essere un bacchettone o un romantico, ma la tifoseria è un'altra cosa. Ci fermiamo un attimo per il traffico, poi sentiamo il direttore Pierpaolo Marino come avrebbe gestito questa situazione. Come gestirebbe? Tutti convocati. Non ho proprio più la pazienza di sopportare questa gente che indossa indegnamente la maglia dell'Inde! Oh, che quelle sono quattro mut qui! Ma chi cazzo sono? Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Tutti convocati. Luigi Garlando, collegato con noi ovviamente Pierluigi Pardo, che è padrone di casa, quindi interviene quando vuole. Volevo chiedere a Pierpaolo Marino come andrebbe gestita, come lui avrebbe gestito, da uomo di grande esperienza calcistica, questa situazione. Ma la situazione andava innanzitutto prevenuta, secondo me, perché in realtà Icardi ha fatto una pubblicazione che per un comportamento deontologico nei confronti della società andava anche sottoposta ai dirigenti della società per prima della pubblicazione. Certo. E allora Pierpaolo, inevitabilemente un'autobiografia dove la parte rilevante ce l'ha l'Inter nella carriera di Icardi comportava anche la possibilità dell'Inter di visionarla e di approvarla. Perfetto, allora facciamoci raccontare da Pardo la biografia di Cassano che lui ha scritto con Cassano, come è stata controllata? No, la riattura è stata veloce, però fatta, me lo ricordo benissimo, a Bogliasco in un giorno, quindi anche da un punto di vista tecnico, con l'addetto stampa, mi pare della stampa in quel momento che era lì in zona. Devo dire la verità che di fronte a una roba del genere io penso che chi scrive un libro, anche se diciamo non ha un rapporto di amicizia stretto, nel caso mio di Cassano il rapporto di amicizia c'era e lo rivendico. Ah, fra l'altro, se ho scritto questa autobiografia è anche grazie a Garlando, che credo che suggerì questa idea all'editore Luca Ossia, quindi lo ringrazio con qualche anno di distanza. Però voglio dirti, prima di scrivere una frase del genere, secondo me, di pubblicarla, ci pensi mille volte proprio perché non vuoi creare problemi al ragazzo, perché oggi Icardi ha nettamente più problemi che opportunità da questa storia qui. Ma sicuro. L'eventuale, lo dicevo ieri, l'eventuale, a parte che non so che tipo di contratto abbia, ma anche ammesso che ci sia una parte variabile sulla quantità di copie che vende, forse qui Garlando ne sa qualcosa in più. In ogni caso sono bruscolini per uno che guadagna i soldi che guadagna Icardi, mentre il problema di immagine e il problema soprattutto proprio di ordine pubblico, di quieto vivere, di rapporto con i tifosi è enorme. Quindi prima di scrivere una frase del genere uno secondo me ci pensa un miliardo di volte, e chiaramente poi c'è l'interesse della società. Noi viviamo in un mondo, ne so qualcosa ogni settimana elemosinando e facendo lo stalker con tutti gli agenti stampa d'Italia, molti dei quali ci staranno sentendo e di saluto, sanno quanto sia complicato riuscire a incastrare una partecipazione a tutti i convocati, a Tiki-Taka, un'intervista per la Gazzetta o per gli altri giornali, e parliamo, grazie a Dio, di organi importanti, no? Quanto è difficile, quanti interessi ci sono, quante volte ti salta perché magari la squadra ha perso. Poi c'è un'autobiografia dove scrive quello che gli pare, giustamente da un certo punto di vista, perché per carità, la libertà, però insomma fa abbastanza pensare tutto questo, no? L'ho già chiesto ai nostri due interlocutori, direttore Marino, togliessero la fascia di capitano Icardi, oggi c'è un colloquio, verrà diramato un comunicato. Sì, il problema è che la gravità di quello che ha scritto Icardi porta alla conseguenza di una degradazione, perché però io continuo ad insistere, forse perché abituato così nelle mie società, io ho avuto anche Maradona a Napoli, appunto. Quindi stavamo con 100 occhi e 100 orecchie belle vigili, quando soprattutto andava in Argentina, poteva rilasciare dichiarazioni, e l'imparigiabile Carletto Giuliano, il nostro addetto stampa, stava molto attento su tutto. E poi nei miei club ci sono dei regolamenti interni dove il giocatore, prima di partecipare a trasmissioni, pubblicare articoli, collaborazioni con organi di informazione, ma anche pubblicare un libro, non può non essere letto prima dalla società di appartenenza. Cioè, e quando uno legge di minacce fatte da un giocatore agli ultra, insomma, dovrebbe anche scattargli qualche campanello d'allarme. Tu che dici? Un'ultima cosa per Gigi Garlando: la conseguenza di questo quale sarà, mettendo insieme anche il fatto che l'Inter in questo momento sul campo è improponibile? È un bel casino, Carlo, nel senso che ci smenano tutti, ci smena il giocatore che aveva costruito anche un rapporto solido poi con la sua tifoseria. È vero che è strapagato, però comunque ha fatto una scelta di legarsi a questa maglia, rinunciando anche magari a contesti agonisticamente migliori. Me ne esce malissimo la società. Ora non so se i cinesi dove sono, cosa faranno, se hanno percepito cosa sta succedendo. Però sì, la cosa forse più brutta di tutte è che si è stato colto questo vuoto societario che potrebbe poi nel futuro consentire altri episodi del genere, là dove c'è Galliani, là dove c'è Marotta, là dove la Roma ha appena presentato Gandini, là dove magari c'è qualcosa di meno al Napoli, però c'è la presenza comunque sempre costante di De Laurentiis, nell'Inter non c'è niente, cioè, Ausilio è bravissimo a comprare e a vendere, ma si è visto ieri come soffre anche fisicamente davanti alla televisione. Ecco, la cosa forse più brutta è avere dato questa immagine di un buco societario che deve essere assolutamente riempito. Bravissimo, grazie Luigi, grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao Luigi Garlando. Dirigenti di cui ti accorgi quasi per sottrazione, ti accorgi perché non succedono casini, cioè ci sono delle figure all'interno delle società, Gandini credo che sia importantissimo per esempio nella Roma, sta per essere presentato credo il 28 ufficialmente, ma insomma è una figura chiave, è una figura importantissima, magari poco visibile, no? Magari uno lo vede soltanto in occasione dei sorteggi europei, però è una figura importante, ci sono degli uomini di società che fanno la società, sa, Pierpaolo penso lo possa confermare, più struttura c'è e meno rischi ci sono di uscire fuori dal seminato, come è successo questa volta in maniera clamorosa. Un'ultima cosa per Paolo Marino, due allenatori, no, uno già pesantemente in discussione ed è quello dell'Inter, cioè De Boer. L'altro che ha perso nettamente il confronto con Spalletti, che come diceva ieri Pierluigi Pardo, l'ha stravinto, è stato il grande protagonista della vittoria della Roma a Napoli. Anche qui, che cosa può succedere? No, assolutamente a Napoli non può succedere niente, se non che Sarri dovrà sotto anche un po' di buona pressione, cioè di positiva pressione, rivedere un po' la sua monotematicità nei moduli, diciamo, perché Spalletti ha potuto avvantaggiarsi modellando la Roma su quello che era il Napoli, sul monotema del Napoli, ha potuto stravincere la partita tatticamente perché conosceva tutte le debolezze del Napoli, che è un Napoli poi che non è imprevedibile tutto sommato, e quindi Sarri già l'anno scorso ha avuto delle defaianze per questo, ora dovrà chiaramente studiare moduli alternativi che valorizzino anche meglio Gabbiadini, che magari in quel modulo lì non rende per quel bellissimo giocatore, che invece per il discorso dell'Inter è tutto molto più complicato, perché la media punti di De Boer è una media punti clamorosamente bassa, e anche rispetto al Mancini dell'anno scorso per esempio, e io credo che sia difficile lì trovare il bandolo della matassa, perché poi anche quando lo vediamo in televisione, nelle interviste, almeno perché io non lo conosco personalmente, dicevo la sensazione di uno paracadutato che non sa ancora dove si trova, quindi questo conferisce poi insicurezza ai dirigenti, e quando i dirigenti sono insicuri, poi dopo si prendono decisioni piuttosto avventate, affrettate o semplicemente sbagliate. Grazie direttore. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Allora Pierluigi Pardo questa sera a Tiki Taka con Mauro Icardi e Vandanara, no? Poi chi c'è? No, con Ciro Immobile, con Alessio Tacchinardi, con Ivan Zamorano che insomma l'Inter la conosce molto bene, poi con Aldo Cazzullo, con Ciccio Valenti e Biasin, Zampini, Mughini, Satta, Fabrizio Roncone, tante cose. Stasera abbiamo un'intervista a Buffon, abbiamo un'intervista a Ranieri, abbiamo insomma, tanta roba veramente. Tanta roba. E ovviamente, insomma, però di Cardi parleremo. 23.05 stasera, 23.05. Stasera all'alba. Stasera all'alba. Sarò davanti alla televisione, come molti. Ciao Pier. Ciao, grazie. GR, torniamo subito. Tutti convocati. Se vuoi ora a Milano vuol dire che sei di burro. Sa me che dura poco quello lì a Milano il sole, Sono Giugia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giugia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck. Sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Namo, let's go! Marquez sgondola ancora prima di consegnarlo per la quinta volta titolo di campione del mondo. Questa moto che è stata tanto discussa all'inizio stagione, ma che per la verità il suo sporco lavoro l'ha fatto alla grandissima tra le mani di questo giovane fenomeno che diventa campione del mondo. Si volta dietro, non c'è nessuno, manda calci di allegria verso il muretto. Marquez c'è ed è campione del mondo. Non mi aspettavo qua, giovedì già ti ho detto è impossibile, domenica, perché deve succedere tante cose, ma sono molto molto contento perché dai, questo campionato abbiamo lottato tantissimo, Valentino è stato molto forte, Lorenzo anche, ma bene dai, vincerlo qua, Giappone, anche abbiamo ha fatto una gara molto molto buona e dopo di l'anno scorso, di tutti quegli errori che ho fatto, era importante vincere questo anno e lo abbiamo fatto. Dopo un buon weekend, Paul di ieri, anche oggi in gara sicuramente con Marquez sarebbe stato difficile, però più o meno come passo eravamo lì. Purtroppo sono caduto, è stata veramente, proprio non me l'aspettavo. È stato un grande peccato perché andiamo a casa a mani vuote. Grazie, non si vive di solo Riccardi, si vive anche di un moto mondiale che ieri si è chiuso come tutti ci aspettavamo, magari non in questa gara. Però aveva ragione, devo essere Roberto Ungaro quando diceva, ragazzi, Valentino adesso ha nel mirino il secondo posto di Lorenzo e cercherà di levarglielo. Quanto al resto, inutile insistere. Ciao Roberto. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Sì, ha anticipato i tempi, però era scritto e abbiamo sempre detto, Carlo, che qualora dovesse vincerlo lui è un titolo meritato, non ha tolto niente a nessuno. È partito in salita con la moto che non era a posto, è partito in salita anche perché il cambio gomme, le Michelin, lui era uno dei piloti che poteva subire di più questo cambiamento. Tecnicamente si è modificato, ha detto la Honda, datemi lo strumento per, io mi calmo, e un pilota trattenersi è la cosa più grande che puoi chiedere a un pilota, perché deve modificare il suo stile di guida. Bene, lui l'ha fatto, è diventato ragioniere e ha fatto vedere che mettendo via come una formichina punti su punti, alla fine è arrivato lì. È caduto tanto, è vero, ma le cadute sono state per lo più in prova. 14 cadute quest'anno, 11 Lorenzo, solo 4 Valentino. E quando è caduto in gara, per esempio Le Mans, ha raccolto la moto ed è andato a terminare tredicesimo, quindi 3 punticini che poi alla fine in classifica pesano. Certo, pesano. Ed certo, eccolo lì, non dobbiamo certo stupirci. È il mondiale della maturità, proprio per questo. Sì. Maturità, parla di maturità, uno di 23 anni, 242 giorni. Diventa piuttosto difficile. Però, se però guardiamo è il mondiale diverso. Sì, questo è il mondiale che consacra veramente una maturazione dal suo punto di vista. Ha 23 anni, 5 titoli, è il più giovane di sempre, batte anche Valentino, ne aveva 24 e si avvicina, secondo me, innanzitutto a Valentino perché la sua freschezza, Marquez può andare avanti ancora lungo tempo e i 9 titoli di Valentino sono abbastanza a portata. Addirittura può impensierire uno come Giacomo Agostini, e i vecchi allora correvano 2 cilindrate all'anno, quindi sì, erano avvantaggiati. Niente da dire, lui l'unica cosa secondo me, riflettendo da appassionato, gli manca la 500 due tempi, che è la moto vera per tutti noi appassionati. Cioè lui ha fatto è passato dalla moto 2, quindi subito 4 tempi e non dal 250 due tempi, ma questo è, cioè lui ha seguito la sua epoca, non è ovviamente colpa sua, però non può dire di aver fatto cose. No, sulla ma tu 500. Mi raccontavi un giorno che è il primo fenomeno, questo è un dato importante, è il primo fenomeno che esce dalla moto 2 e non dalla 250. Sì, infatti vincendo da rookie nella moto GP, lo abbiamo sempre detto, è stato un po' avvantaggiato dal fatto che moto 2 604 tempi, mentre invece la vecchia scuola era 252 tempi, guida completamente diversa, zero freno motore, tutto quanto. Lui ha avuto un passaggio intermedio più graduale, è stato lo stacco tra moto 2 e moto GP è inferiore a 252 tempi e moto GP. E quindi è la nuova generazione che è andato subito forte, poi ha confermato ovviamente perché è un talento strepitoso. Però c'era questa caratteristica, l'avevamo fatta notare subito, caratteristica che poi tutti gli altri hanno trovato, perché sì, è sì, così. Sì. 800240024 per le vostre telefonate, messaggi 349-238-6666 e ne ho diversi, c'è cioè chi mi prega di ricordare le industrie italiane perché ieri la Ducati ha fatto doppietta in Superbike con Davis in gara 1 e in gara 2 e c'è chi scrive Io non sono così d'accordo. Una cosa è certa, le Michelin si sposano molto meglio con le Honda e il fisico di Marquez, che non è quello più imponente di Rossi e di Lorenzo. Su Lorenzo possiamo discutere, sull'imponenza del fisico di Lorenzo. Comunque, rispetto alla Yamaha, per lui queste gomme sono state la rovina, mai avuto con la Bridgestone questi problemi, ma chi cazzo le ha volute le Michelin nel circuito, mi domando io, forse le spagnole per favorire quei loro due conterranei. Non allora, è così, allora. Non è così. No, la corporatura non è assolutamente influente e Michelin ha dovuto rincorrere un risultato, è partita con sicuramente un anteriore non a posto. Il fatto è che Bridgestone, la gomma era quella e quella rimaneva, era una costante tutto, per tutta la stagione. Invece Michelin ha continuamente cambiato la gomma, ha fatto un work in progress gara su gara, perché è una gomma più artigianale, anche come metodo, come costruzione è molto diversa dalla giapponese. Ha fatto una gran gomma posteriore, mentre l'anteriore creava problemi, ma soprattutto anche per il fatto che il posteriore spingeva tanto e mandava in crisi l'anteriore. Addirittura hanno fatto un posteriore meno performante per evitare che mandasse in crisi l'anteriore. E soprattutto la grande differenza è in frenata. Mentre prima si potevano attaccare i freni e violentare la staccata, oggi non lo possono fare con le Michelin. E infatti le cadute che abbiamo visto non erano in staccata, forzavano un pochino, però li hanno traditi di colpo. Cioè la Bridgestone non faceva quell'effetto, la Michelin ti parte senza che neanche te ne accorgi. Fai tu la prima domanda, Graziano Rossi. Graziano, buongiorno. Ciao, buongiorno Graziano. E allora con un Marquez così ci abbiamo creduto fino all'ultimo, però questo Marquez qua alla fine quest'anno è diventato un ragioniere ed è diventato più difficile anche innervosirlo, fare strategia di testa come solo Vale può fare e sa fare, vero? Ma guarda, quando i due piloti che gli stanno più vicini, Valentino e Lorenzo, sono dietro di lui e cadono, voglio dire, anche se non c'è bisogno di essere dei grandi ragionieri per prendere altri 25 punti e vincere il mondiale, lì c'entra un pochino anche le condizioni degli altri. Dalla parte di Valentino devo dirti che il mondiale in pratica era già perso da tempo, no? Quindi Valentino correrà le prossime gare che mancano qui alla fine, come ha corso queste ultime due, per fare meglio possibile in quella gara lì. Certo. Perché oramai solo quello è una soddisfazione che ti puoi togliere. Beh, credo che anche andare a prendere una medaglia d'argento togliendola dal collo di Lorenzo, che non è esattamente il suo miglior amico, potrebbe non essere una brutta idea. Questa è un'altra possibilità molto interessante, però quando tu sei partito nella gara e hai la condizione psicologica di fare tutto quello che puoi meglio possibile, un secondo posto non conta quasi niente. È il primo dei perdenti, vero Graziano? I piloti ragionano così. Il primo dei perdenti, poi se l'altro è terzo e l'altro diventa il secondo dei perdenti, ma però non te ne frega molto, non è quello che riesce comunque a modificare il tuo modo di guidare in quella gara. Quindi sia Valentino che credo Lorenzo correranno per vincere le prossime gare, no? E sarebbe una grande soddisfazione, perché poi anche Marquez le prossime gare le correrà per vincerle, non dovendo più pensare al campionato. Quindi quasi le prossime tre gare quasi diventano un campionato a parte. Molto più divertente per noi. Ma Graziano, secondo te potesse favorire qualcheduno Marquez? Preferirebbe favorire Vale o Lorenzo? Abbiamo visto l'altro giorno, l'altro anno. No, no. Che domanda è? nella bagarre. Che domanda è secondo te? Con la vena chiusa. Marquez raccoglierebbe le firme per non farlo correre più a Valentino se potesse. Senti, posso chiederti una cosa che a me sta sul proprio un rospo che ho in gola? Almeno nella prima parte della stagione la Yamaha era più forte della Honda. Ma sai, tra lì, no. Più a posto, ci sono, dai. Ci sono differenze talmente piccole che molte volte dipendono anche da un circuito all'altro, molte volte dipendono dalla forma del gruppo dei meccanici la venerdì mattina, che devono mettere a posto la moto un pelo meglio o un pelo peggio. Quindi a me questa grossa differenza non è mai è sicuro che la onda è cresciuta, ma secondo me siamo al pari con le moto, lo eravamo all'inizio del campionato e lo siamo adesso, ecco. Può vincere una Honda o può vincere una Yamaha e può vincere anche una Ducati, oggi può vincere anche una Suzuki, dipende dalle questioni del momento, ecco. Quale motivazione avrà Valentino l'anno prossimo? Quest'anno le conoscevamo, erano anche desideri di vendetta, c'era molta rabbia, c'era molta incazzatura, c'era molta voglia di rivincita. Dove troverà le energie mentali secondo te? Secondo me rimangono esattamente le stesse l'anno prossimo. Secondo me non, tra loro oramai non cambia più niente, sai? Neanche a livello di motivazioni, neanche a livello di volersi assolutamente male. Oramai quelle cose lì non si cancellano mica, quelle cose lì non si cancellano più, sai? Lo so, posso immaginarlo. Graziano, grazie mille. Un abbraccio forte. Ciao Graziano. Un abbraccio forte. Come, buon pomeriggio. Ciao. Come leggi? Ti fa ridere. Sì, perché Graziano ovviamente, cioè la differenza tecnica fra le due moto c'era ed era evidente, la Honda non era posta inizio stagione. No, non era la moto era la Yamaha era la più bilanciata, ma è chiaro, è Graziano, io l'ho voluto provocare con quella battuta e alla fine di Valentino, secondo me quello che mi ha stupito è che cadere ci sta. Dove Valentino mi ha sorpreso quest'anno è quando ha sbagliato a rientrare ai box, ha sbagliato strategia. Sì, quello è un vale che io non mi aspetto, perché lui invece ha sempre azzeccato, anche l'anno scorso a Misano mi sembra di ricordare, se non sbaglio. Comunque quello è il Valentino che, ma quello non vuol dire niente, nel senso che non è perché va avanti negli anni e allora non è meno lucido in una strategia, no. Però da Valentino non te lo aspetti, perché ha sempre azzeccato tutto, è stato sempre molto aiutato anche dalla sorte in questo senso, volta si è fatto male quando è caduto e nelle varie cose, quindi è lì un po' il Valentino che ha sbagliato, perché alla fine cadere ci sta, è caduto troppo, ma cadere fa parte dell'essere pilota, del gioco, quindi alla fine è quello. E niente, beh, Graziano è Graziano, lo conosciamo, molto bene. No, ma un'ultima cosa, Roberto, ma ha ragione Graziano Rosi quando dice che le motivazioni saranno esattamente quelle di quest'anno, l'anno prossimo vedremo Valentino come quest'anno cercare comunque di rivincere per l'ultima volta il titolo. Sì, perché Vale è così, non, altrimenti non correrebbe, altrimenti non sarebbe lì a giocarsela. Lui si deve prima di tutto divertire, ma il suo divertimento è essere ancora protagonista. E a Vignales diranno: tu fai il bravo, non rompere troppo le scatole. Sai, Vignales ha già dimostrato, comunque, e sarà bello vedere anche la gestione della squadra tra i due, e non gliele manda a dire, secondo me, Vignales, perché uno alla fine che esatto, e quindi sarà molto interessante, ma Valentino, secondo me, finché ci sarà a suo modo, perché Valentino è così, non vuole fare il comprimario, non vuole fare quello che è lì per partecipare, non è nella sua testa, piuttosto va a divertirsi con le quattro ruote, e lo ha già fatto capire questo, e si diverte tanto, oppure rimarrà lì nel gestire la sua squadra, i talenti che stanno venendo fuori, iniziano ad arrivare i frutti della sua academy, e questo è un buon proseguo, perché ha seminato per raccogliere il testimone. Ma Valentino sarà sempre quello, è chiaro che 38 contro 24 fa la differenza, fa una certa differenza, però lui sarà sempre Vale. Professore, grazie a voice. Te Carlo, alla prossima. Un saluto a tutti, alla prossima. Abbiamo ancora tre gare, questo mini campionato che sarà molto interessante, perché io credo davvero che Valentino adesso voglia voglia arrivare davanti a Lorenzo. Altro che, credo sia una grande motivazione. Peccato senza Iannone, ha confermato che peccato non sarà, perché lui vabbè, è così. Non vuole rischiare, tra l'altro ha ragione. Se tanto hai visto tanti rumors sul web, lui che se ne sta a casa con la sua situazione sentimentale, ma secondo me Iannone è uno dei fa parte di quella categoria eletta di quelli che hanno grande manetta, e sì, quindi secondo me smussando i suoi, le sue esuberanze potrà arrivare al risultato, l'ha già dimostrato, e tutto quel gran vociferare secondo me è solo grande invidia di tutto il pianeta Terra, nella modalità etero, secondo me è sì, quello, quindi. Bravissimo Roberto Ungaro, grazie Robby, ciao. Io saluto Francesco e Federico. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Io, se facevo a tempo, volevo intervenire sulla questione Icardi. Se era Allora, effettivamente è già stato pronunciato un sommario giudizio su questa questione da qualcuno poco fa. Però volevo rimarcare un aspetto. Il calcio è educazione. Il calciatore è un professionista. La prima cosa che deve imparare è rispettare le regole di un codice proprio e deontologico, cosa che lui effettivamente non ha fatto, nonostante questa in questo codice deontologico sta scritto che bisogna appecoronarsi ai 40 capi della curva? Mi deve scusare se io intervengo e faccio un'osservazione. Il professionista in quanto tale deve rispettare una deontologia morale, cioè il professionista è tale proprio perché è un cultore della propria materia intellettuale o diciamo così di carattere pratico. Benissimo. È comunque un professionista, sì, è un professionista. Si diletta con in modo esemplare in un argomento. Allora, come... no, sono d'accordo. Allora, Icardi è andato sotto una curva che contestava e vomitava insulti, almeno in quei 40-50 capi che lo fanno per mestiere. È andato e ha tirato la maglietta e i pantaloncini a un bambino. Poi è successo quello che è successo e da lì è stato raccontato questo episodio con la degenerazione inaccettabile di cui sopra. Io non so se nel codice deontologico faccia parte il fatto che i giocatori stessi debbano certe volte abbassare la testa alle società, come ha fatto ieri Zanetti, debbano calare le braghe di fronte a questa gente. Io credo che non stia scritto in nessun tipo di codice deontologico professionale. Sono stato... va bene così? Grazie. Federico. Sì, buonasera, grazie della convocazione. Condivido pienamente quello che ha appena detto Zanetti, perché chiaramente non me l'aspettavo che andasse a difendere la curva, perché la curva non è il tifoso generale d'Italia, no? Dell'Inter. Io che sono tifoso ma dell'Inter, neanche tutta la curva è possibile inquadrarla nello stesso range, perché sì, la curva è sempre stata un po' fuori dai ranghi, anche fuori dai ranghi. Episodi. Non dimentichiamo che ci sono i capi della curva che sono degli affaristi, sono lì per fare il loro lavoro. Punto. Infatti io come tifoso non sono andato a criticare Icardi per quello che ha scritto, che è sbagliato, come quello che ha messo ieri la curva. Però io come tifoso normale e semplice leggo il gesto suo di questa maglietta, dove poi è stato aggredito da questi 40. Ecco il tifoso che ieri ha applaudito per questo motivo, secondo me, ha capito questo motivo. Mm. E ha maglietta di aiutarlo. In che senso? Quale maglietta? Che ha dato a questo bambino, che poi questo qua è sceso e gli ha strappata da questo bambino, cioè il tifoso normale... E gliel'ha ritirata indietro Esatto. Cioè, il tifoso normale e semplice legge questo episodio, non va a leggere perché Icardi si è accanito, ha detto questo. Ma me. Guardi, io se avessi fatto un gesto del genere, a parte il fatto che andare sotto la curva che ti insulta... Ci vuole un po' di testa calda. Però avessi assistito ad un episodio di questo tipo, non so se mi sarei comportato da gentleman, ok? Non so se avrei usato espressioni tipo ma guarda, fai il bravo, non si fa così. Se l'episodio è questo, non ho ragione di credere che non sia questo. Comunque la notizia di oggi è che sta cominciando a uscire è che Icardi verrà multato, non gli verrà tolta la fascia di capitano, cosa non ancora confermata. Abbiamo solo 2 minuti purtroppo, ma ci torniamo nei prossimi giorni per mettere il cappello sul mondiale corso sulla luna del Qatar e vinto da Peter Sagan, il miglior corridore indiscutibilmente per le corse di un giorno esistente su questo pianeta. Pier Augusto Stagi. Hai detto tutto, Carlo. Sulla Luna ci è andato un marziano in questo caso, e il marziano a tutti gli effetti è Peter Sagan, è il corridore più vincente di quest'anno, più convincente, più spettacolare, ed è un bene per tutto il movimento ciclistico mondiale avere come rappresentante, come grande ambasciatore del ciclismo nel mondo, Peter Sagan, che è un corridore che diverte, che piace ai bambini, che piace alle ragazze, che piace ai nonni, che piace agli zii, piace a tutti. Beato anche lui. Una gara ciclistica come quella di ieri, che poteva essere veramente da taglio delle vene ai polsi, è stata invece divertente. Divertente perché comunque il circuito di Doha, criticatissimo alla fine, grazie al cielo, un po' di vento ha dato una mano, il vento ha scompaginato le carte e ha reso la gara meno monotona. E poi ci ha rimesso del suo Peter Sagan, che anche quando sì, posso dirti che in una corsa così bizzarra non poteva che finire così, cioè con quell'ordine d'arrivo, con i tre più grandi velocisti. Meno male che è finita così, perché se no sarebbe stato veramente non un flop di più. Perché sì, correre nel deserto senza neanche senza un tifoso o comunque qualche parente, no? Sembrava di essere veramente al circuito della Tinca, che si corre nell'Oltrepò Pavese tra sì, qualche amatore. Invece sì, lì c'era il meglio della gioventù del ciclismo mondiale, e che correva con qualche parente che acclamava ed era contento di veder vincere, certo, proprio certo, il proprio fidanzato, il proprio marito, il proprio figliolo. Certo. Non è un bello spettacolo, però alla fine è stato un bello spettacolo. Ci ragioniamo sopra nei prossimi giorni, magari convocando quando sarà tornato il CT Cassani. Intanto ti ringrazio, così come ringrazio tutti voi, Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Alvise Falzone in redazione. A domani. Ci vediamo domani. Enjoy!